Ed eccoci di nuovo in studio da Via Zanardi, Radio Città Fujiko. Oggi aggiungiamo un altro suono ad altri suoni, la rubrica che segue il DGR Radio Popolare, tornando a Bologna con la nostra emittente Radio Città Fujiko. Altro suono che aggiungiamo, definito turntablism, oppure più conosciuto come DJ Works. Di cosa si tratta? Beh, dobbiamo fare un salto indietro, arrivare al periodo del famoso acid jazz, che ha inglobato, scusate, parte anche delle sonorità hip hop, andando in commistione con il jazz, con l'impro. Queste sonorità elettroniche di DJ Works sono un taglia e cuci, portate tendenzialmente da DJ e produttori che hanno avuto motivo di ricerca in brani che hanno una diffusione particolare, molto rara, un lavoro di digging, cioè di ricerca nel suono. Questi DJ, per meglio dire, io li definisco più produttori, ecco, producer. Un po' la ricerca che ha fatto grandi DJ come Gil Peterson, come Eddie Piller, Patrick Forge, hanno avuto modo di dare importanza negli anni 90 al lavoro del DJ come selezionatore. In questo caso l'hip hop inglobato, il rap, l'hip hop inglobato con il jazz nel movimento acid jazz. Ricordo Guru, ricordo altri DJ come MC Solar, che hanno avuto modo di sviluppare questo incontro, anche molti tra virgolette bianchi DJ del progetto Galliano. Insomma, nel lavoro del DJ Works poi prende piede uno spazio, una frangia dell'elettronica che porta label come la Ninja Tune, per dire, i famosi Cold Cut, i fondatori tra i protagonisti della Ninja Tune sono due producer. Daft Punk, ecco, questi sono un pochettino una vetta anche delle major, oltre che immensi talenti. E vediamo un po' quello che è il selezionatore, il DJ e il producer. Allora, questa sera sono a mettere i dischi al Fondo Comini in via del Battiferro, è una scusa, è anche per citare la serata, che tra l'altro è molto particolare, uno spazio veramente molto molto suggestivo. Insomma, ma bando a questa piccola marchetta alla quale tengo, aggiungevo che non vado a suonare. Spesso mi sento dire: ma dove sei a suonare questa sera? Ma chi c'è a suonare? Poi magari c'è un DJ set. È diverso. Suonare è una cosa, mettere i dischi è un'altra, fare un DJ set è una cosa, selezionare brani o selezionare dischi è un'altra cosa ancora. Queste specificità secondo me sono importanti. Ad esempio, io non conosco le note, io non so suonare neanche il campanello di casa mia, e senti questo accordo in la minore. Per me il la minore è una frazione di Rho Ferrarese, ecco. Quindi non posso, non ho le capacità di suonare. Io posso mixare. A mixare ci sono delle regole. Mixare, c'è il battere, il levare, ci sono i tempi, c'è il momento in cui devi entrare, c'è l'uso di determinati aspetti, non vi sto a tediare con questo. Io so mixare, ecco, poi che io lo faccia più o meno bene, quello è un altro discorso, ma ho ben chiaro il concetto del mixaggio. E quindi DJ, il selezionatore, lavoro, non sto dicendo è meglio una cosa o è meglio l'altra ancora, assolutamente, sono tre cose ben diverse. Io non vado a suonare, quello è certo. Il selezionatore anche in questo caso non fa il DJ, fa una selezione musicale. Gil Peterson non è un DJ quando fa le serate, fa le selezioni musicali, lo fa con un grandissimo gusto, con una continuità, con una ricerca, con un talento veramente. Quindi non è tanto l'aspetto soprattutto nella pratica e come viene svolta, ovviamente, no? E le tre differenze, secondo me, sono assolutamente importanti, perché si fa un po' di confusione. Quindi DJ Works, EDM, hip hop, ambient, musica elettronica, anni 90, alcuni DJ, dopo aver sviluppato questo senso di ricerca e pratici anche di modalità di lavoro sui piatti e di taglia e cuci tra i brani che andavano a ricercare, ma pensa un po', perché non iniziamo motivi di composizione originale tratta proprio da questi aspetti? E qui nasce il DJ Works o Turntablism, che ha avuto e ha tuttora DJ Herbert, un grandissimo talento. Di alcuni DJ faremo in altri suoni delle piccole monografie. Io vorrei partire da quello che mi ha affascinato dai primi anni 90. È un DJ giapponese, Hideaki Ishii all'anagrafe. Il suo nome con cui è conosciuto è DJ Crash. Nasce a Tokyo il 29 luglio del 1962. È un produttore, DJ produttore, DJ Works. Per me lui è uno dei numeri uno, con una capacità di mettere assieme la ricerca, il lavoro di, chiamiamolo, taglia e cuci, per dare un'idea, tra i vari loops, i beat e i groove, portando degli editing, cioè la parte poi che vuoi mettere ufficialmente nella registrazione, con grande talento e grande ispirazione. Lui ha avuto un percorso di vita molto particolare, ma molti DJ, insomma, hanno avuto queste controverse vite, no? E ne parleremo tra poco. Intanto, allora, Mowax, la casa di Alan Level, altra casa molto bella, quella che ha dato al trip hop una realtà di sonorità così raffinata, ecco, più ricercate rispetto al trip hop, come si intende, che poi è più uno sguardo al pop. Ecco, la Mowax mette sotto contratto DJ Crash. Io, appassionato di dischi della Mowax, prendo subito il primo lavoro che riesce a arrivare in Italia nel 1994, è il suo secondo disco. Per me è un disco che mi ha lasciato veramente... Certo, ha delle sonorità cupe, lo ammetto, però ha una narrazione, una scrittura musicale, ha un aspetto di composizione veramente molto molto molto bello. Le Muri, il brano, è stato il primo brano con cui ho avuto modo di conoscere DJ Crash, ve lo propongo, poi torniamo in diretta, ok? Anni di vita, DJ Crash lascia la scuola per unirsi alla Yakuza, è la mafia giapponese. se vogliamo, è un parallelismo che possiamo abbinare ai gangsta rap, no? Però del Sollevante in questo caso. Poi c'è un episodio che dice: ma forse è meglio fare musica, visto che ho una grande passione, mi piacciono un sacco di dischi, ho due piatti della Technics, ho la capacità di registrare, mettere assieme brani, ho passato tante brutte esperienze. Una in particolare: gli fanno arrivare il dito mozzato di un suo carissimo amico, tanto per rendergli un po' l'idea. Quasi quasi io interrompo i rapporti con la malavita e faccio musica. Ottima scelta, DJ Crash. Si innamora della rap culture, si innamora, è uno dei pionieri, ne aggiungo altri, con cui uno con cui ha collaborato nel disco che propongo subito a seguire, il suo primo Strictly Turntablized per la Mowax, sempre per la Mowax, e citando questo altro, diciamo, artista seminale per i DJ Works. Io non ne sono un suo tifoso, dico la verità. Infatti metto un brano in cui non è presente. Ha avuto un successo col suo primo disco veramente incredibile. Parere personale un po' sopravvalutato, adesso gli addetti ai lavori magari non sono d'accordissimo, però insomma, rispondeva a nome di DJ Shadow, e per me DJ Shadow non era esattamente questo grandissimo... Poi questa è unicamente questione di gusto, il talento è indiscusso, ci mancherebbe. Questo è Meiso, è il terzo lavoro, ufficialmente il secondo per la Mowax di DJ Crash. Il disco che stiamo ascoltando e che sta girando è Meiso, e il brano What Behind Darkness è appunto Meiso, che sarà una parola giapponese da cui non ho traduzione. Una ricerca anche per il jazz, siamo in epoca C-Jazz, e un chitarrista tanto talentuoso quanto sfortunato, concluderemo la mini playlist con due collaborazioni. Una è con Ronnie Jordan, uscirà un mini LP Ronnie Jordan meet DJ Crash. Ronnie Jordan incontra DJ Crash, dal quale faccio partire questo brano che secondo me è veramente un lavoro di guitar and DJ Works, fatto con una cura, un talento, un funky, un, come si dice, un tiro, io preferisco la parola groove, però veramente molto molto ispirato. Ve lo faccio ascoltare. Concluderemo invece con il passaggio di DJ Crash al jazz con un trombettista giapponese. DJ Crash, e in seguito poi, come ho detto, DJ Shadow. Per quanto riguarda il lavoro, Turntablism e DJ Work, Thievery Corporation sono dei produttori, Kruder and Hoffmeister sono dei produttori, seppure adesso ma Nicola Conte dalla Fez di Bari è un DJ e poi un produttore, un producer. Quindi il lavoro del DJ Works, io ho selezionato quelli, sto selezionando quelli un po' più adatti alla rubrica Altri Suoni. Domani infatti conosceremo DJ Spooky, che è un altro che ha fatto della ricerca e della capacità di addentrarsi in sonorità più da definirle in altri suoni. Comunque tratto Battle Funk Dub, Ronnie Jordan e DJ Crash, e poi concluderemo con l'incrocio con il jazz attraverso un trombettista giapponese che porterà a termine la nostra playlist per la rubrica odierna di Altri Suoni. Degli anni 2000, e infatti concludiamo col suo ultimo passaggio a proposito di Hideaki Ishii, in arte DJ Crash, insieme a Toshinori Kondo, trombettista, talentuoso trombettista giapponese. Ecco come con il linguaggio modern impro jazz e il lavoro di turntablism o DJ work ci sia questa scoperta di altri suoni estremamente particolare, e infatti lo faremo da questo ultimo lavoro. Il titolo è in giapponese, per cui non lo so, però è il lavoro di DJ Crash e Toshinori Kondo. DJ Crash, per il suo talento, lascia poi la Mobox, andrà sotto contratto per delle major, è veramente ritenuto un grande talento e io lo confermo, in effetti. Eccolo qua, ci porta a conclusione questa mini playlist, e a breve andremo in mostra. A tra poco.